stava zitta, seduta sulle scale. Dei ragazzi del trasloco per fare in fretta la trattavano male. E di nuovo cambio casa, cantava dalla radio la voce di un amico mio. Oh, come ti capisco, ma chi cambia qualche cosa qui sono io. E i miei amori uscivano dai cassetti e dalle scatole di latta. Qualcuno in macchina, altri ancora solo in maglietta. E correvano via, giù per quelle scale via. Ognuno solo a bordo della sua fotografia. Ancora alla sua fotografia, traslocando.